e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, buongiorno a tutti, eccoci qua. No, sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia, sì, perché non ho ancora aperto tutta la mia piattaforma. Nel frattempo però sono già le 10.35, allora, ma corriamo, noi siamo qui e anche in diretta Facebook. Guarda, diciamolo, perché non appena lo diciamo subito i nostri amici vanno a vedere come siamo vestite, se siamo in ordine. Io vedi che tu bella. Sei veramente meravigliosa oggi con il mio colore preferito. Ti ho portato un po' di sole. Brava, perché qua latita, diciamo, speriamo che arrivi nei prossimi giorni. Detto ciò, andiamo. Io oggi ho la scuola di risparmio, te lo anticipo già. Tu? Anche noi andiamo un po' a scuola, cerchiamo di preservare la salute della nostra voce, dell'apparato fonatorio. Quella. Con un grandissimo esperto, il professor Brava. Fussi, che si prenderà cura di noi. A tra poco. Allora, prima di sederci sui banchi della nostra scuola di risparmio, vi invito a schiarirvi un po' la voce, perché tra poco arriverà il professor Franco Fussi che ci racconterà come mantenere le nostre corde vocali, ma anche la laringe, tutte quelle parti che permettono al nostro corpo di mandare fuori la voce, che è un po' il nostro biglietto da visita, in modo sano, e quindi regalare benessere oppure tornare a farle stare bene. La usiamo per convincere, per attirare l'attenzione e, perché no, anche per affascinare il nostro interlocutore. Facciamo di tutto e di più per migliorare la nostra immagine, curiamo l'abbigliamento, acquistiamo prodotti cosmetici, andiamo dal parrucchiere, in palestra e così via, ma se l'immagine è importante, la voce lo è ancora di più, è parte della nostra immagine. Allora oggi impariamo a mantenerla sana ed evitare tutti quei disturbi che possono interferire sul suo buon funzionamento. L'assist, come dice Deborah, mi viene servito su un piatto d'argento, perché noi dobbiamo agganciarci all'attualità, da Ligabue. Infatti il cantante proprio qualche giorno fa ha dovuto sospendere il tour in Italia e ha annunciato questo arresto sui suoi social, dicendo che gli hanno diagnosticato la malattia professionale di chi canta. Nello specifico si tratta di un polipo alla corda vocale. Quindi, amici, per tutti i cantanti canterini che si esercitano magari sotto la doccia, 800 24 00 24, canta naturalmente anche Carmelo, restate con noi, schiaritevi la voce e fateci sentire la vostra voce, perché proprio magari preparatevi un piccolo testo da leggere e il professor Fussi vi dirà se la vostra voce è in qualche modo stressata o affaticata da un lavoro eccessivo, e ci darà naturalmente dei suggerimenti per alleggerire un po' questo carico. In attesa delle nostre telefonate, spazio alla nostra rassegna stampa di cuore. E apriamo la nostra rassegna stampa con una buona notizia. Per la prima volta, infatti, diminuiscono in Italia i decessi per tumore. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica, l'AIOM, in un convegno ospitato ieri presso il Ministero della Salute, ha presentato una relazione basata sui dati Istat del 2013. In quell'anno i decessi sono stati 1.134 in meno rispetto all'anno precedente. Allora noi vogliamo commentare la notizia col presidente dell'AIOM, il professor Carmine Pinto. Buongiorno professore, grazie e bentornato. Buongiorno, grazie Nicolette, grazie Deborah per l'invito. Allora, un successo che è merito di una maggiore prevenzione, una maggiore adesione alle campagne di screening, così anche come all'utilizzo di terapie sempre più precise, più mirate, cucite su misura. Professore. Ma direi che il messaggio che noi vogliamo dare è che in Italia i pazienti con cancro vengono curati bene e che soprattutto abbiamo... Guardi professore, professor Pinto, che c'è la trasmissione per lei, quindi lei si accomodi. La trasmissione successiva. Ecco, anche per la voce. Fa finta di fare l'ascoltatore che chiama perché ha bisogno. Eh beh, certo, noi diamo una mano anche al professor Pinto. Mi dica. Abbiamo delle buone strategie di controllo che vanno dalla prevenzione, quindi dall'informazione, programmi di screening e ovviamente un miglioramento delle cure, dalla radioterapia alla chirurgia oggi sempre più conservativa, e ovviamente un miglioramento delle cure farmacologiche e delle cure mediche. In oncologia è cambiato molto, oggi abbiamo due grosse nuove armi a disposizione, uno l'immunoterapia che negli ultimi anni ha dato risultati importantissimi per patologie per le quali, tipo il melanoma, che a 6 mesi aveva una sopravvivenza mediana, e oggi abbiamo malati che sono vivi a a 5 e a 6 anni. E l'altro campo sicuramente rilevante è quello della terapia di precisione. Che cosa vuol dire questo? Oggi abbiamo capito all'interno di un processo neoplastico quali sono quelle pettove molecolari, quali sono quei geni alterati, abbiamo fatto dei test e oggi abbiamo a disposizione dei farmaci che colpiscono quel singolo passaggio. Questo dà due vantaggi: da una parte ci permette di selezionare i pazienti, cioè dare al paziente giusto la terapia giusta, evitando quindi trattamenti inutili da una parte, e dall'altra di non dare tossicità a chi non avrà vantaggio dal trattamento. L'altro vantaggio sicuramente importante per il sistema sanitario nazionale è che utilizziamo bene le risorse, cioè diamo la terapia a chi funziona o a chi potrebbe funzionare, non la diamo invece a chi non dovrebbe riceverla perché sappiamo già in partenza che non è in funzione. E questa è veramente una grossissima novità. Comunque devo dire il miglioramento di tutta la strategia. L'ho detto già altre volte, in Italia se consideriamo la sopravvivenza a 5 anni per le principali patologie, abbiamo dei tassi di sopravvivenza per tutti gli stadi che sono i migliori dell'Europa occidentale. Quindi un sistema sanitario che funziona ancora con qualche differenza, con qualche criticità in alcune aree, ma sicuramente una buona assistenza al cancro e soprattutto un sistema universalistico che permette a tutti i pazienti, indipendentemente dal ceto delle condizioni, di accedere alle migliori cure, se volete anche a quelle più costose. Adesso però, professore, è importante non abbassare la guardia, naturalmente difendere il risultato e migliorarlo. Lei accennava ancora delle differenze e quindi ci auguriamo che su tutto il territorio nazionale vengano garantite le stesse cure e siano date le stesse possibilità, le stesse chance. Professor Pinto. Noi oggi abbiamo un'arma importante per migliorare in tutto il paese e rendere standard quello che noi facciamo, sviluppare le reti oncologiche regionali, cioè mettere tutte le strutture, le oncologie in primis, impegnate nell'oncologia, nel trattamento di un paziente oncologico in rete, per razionalizzare tecnologie, professionalità e risorse e dire, ad esempio, per patologie che richiedono tecnologie molto avanzate, in quella regione, all'interno di un percorso guidato, in maniera che il paziente non deve andare in giro, ma abbia un percorso guidato, dove avere la migliore cura. Questo ci permette di utilizzare al meglio le risorse che noi abbiamo a disposizione e garantire in tutto il paese le migliori cure. Ad oggi purtroppo abbiamo solo 6 regioni e una provincia autonoma con una rete oncologica regionale attivata. Come AIO siamo fortemente impegnati perché questo si sviluppi. Professore, parliamo dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Tra le altre cose abbiamo dedicato proprio uno spazio con la collega Barbara Gobbi qualche giorno fa. C'è una novità che riguarda gli adolescenti maschi ai quali si estende il vaccino antipapillomavirus. Anche questo è un segno molto chiaro verso la prevenzione. Io direi una grande sensibilità da parte del nostro Ministero di comprendere quanto sia importante la prevenzione, soprattutto tra i più giovani, per quanto riguarda le infezioni da HPV. Noi sappiamo che l'HPV è causa del tumore della cervice nelle donne, ma anche di tumori nell'uomo, ad esempio pensiamo al tumore del pene, o anche in entrambi i sessi il tumore dell'ano, il tumore dell'orofaringe. Oggi poter vaccinare, abbiamo a disposizione un vaccino molto più esteso, gli adolescenti, permette di non abbalare e nel giro di qualche anno o di qualche un decennio di debellare completamente una patologia come il cancro della cervice nella donna. Professor Pinto, la ringraziamo per essere stato con noi. Se ha tempo e se vuole seguire Cuore Denari, ci occupiamo di voce anche della sua, professor Pinto. Abbiamo chiesto mille. I nostri ascoltatori di schiarirsi la voce, di chiamarci in modo che il nostro esperto possa fare una fotografia dello stato di salute dell'apparato fonatorio. Professor Pinto, grazie, ci sentiamo presto e grazie per questa bella notizia. Buona grazie, giornata. Grazie, Deborah. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi schiariamoci la voce e andiamo col professor Fussi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. E lui, il grande Liga, che ha sospeso il suo tour posticipando tutte le date a settembre e ottobre perché, come scrive lui stesso sui social, dovrà essere operato alle corde vocali a causa di un polipo. Allora, in linea con noi l'abbiamo anticipato il professor Franco Fussi, responsabile del Centro Foniatrico Azienda USL della Romagna a Ravenna. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo cercato di trattenere anche il professor Pinto, che dell'IOM, che è intervenuto prima di lei, perché aveva un po' la voce che andava un po' via va, un po' su e un po' giù, ma non so, forse è scappato. Allora, abbiamo parlato, abbiamo fatto delle puntate tutte sulla voce. Qui nello specifico Ligabue parla di un polipo intracordale che ha interessato precisamente la corda vocale sinistra e che non gli permette di cantare. Lui ha definito proprio che una malattia professionale di chi canta. Allora, naturalmente può colpire anche chi non canta, chi parla, ma professore, ci aiuta un po' a capire che cosa sono i polipi? Ci facciamo un po' i fatti di Ligabue, ma il problema è molto diffuso. Sì, è vero, perché i polipi sono comunque delle lesioni delle corde vocali di tipo benigno, ovviamente, e sono sempre localizzate normalmente sul bordo libero della corda vocale, perché sono proprio legate ad abuso vocale in condizioni di infiammazione che può essere legata a una laringite cronica da reflusso, a una laringite cronica del fumatore, oppure a una laringite acuta. E nel momento in cui c'è uno stato infiammatorio acuto e devo andare a forzare la mia emissione vocale, può succedere che il bordo della corda vada incontro a una vasodilatazione, a un edema, che è praticamente un aumento della massa della corda per accumulo infiammatorio di fluidi, e questo succede magari soprattutto nella zona della corda dove c'è più pressione intracordale, quindi nella zona centrale o nella zona anteriore. Il polipo è quindi una dilatazione, un'ernia che si estroflette sul bordo e crea difficoltà all'adduzione delle corde, quindi fuga d'aria. Nel caso specifico esistono però anche più raramente dei polipi intracordali, cioè l'estroflessione non avviene verso l'esterno ma avviene verso l'interno nella sottomucosa, e quindi si crea come una sorta di possiamo dire massa cistica all'interno della corda, che impedisce l'ondulazione regolare periodica della mucosa di superficie, quindi la voce è più sgranata, è più sporca, è più rauca, è più difficile legare i registri, cioè passare dal piano al forte, dal falsetto al pieno. Sento dei break vocali, quindi sono costretto a forzare ancora di più la vasodilatazione, che già intrinseca nel polipo crea una dilatazione di un capillare, eventualmente una sua rottura, quindi anche un versamento ematico dentro la corda, rendendo quindi impossibile poi il proseguo del canto. Lei, sì, professore, lei cosa, infatti ha parlato di voce sgranata, sporca, rauca. Io ho anticipato agli ascoltatori: chiamateci, parlate, e il professor Fussi, ascoltando la vostra voce, vi farà una sorta di diagnosi, tra virgolette, naturalmente, vi potrà dire se la voce la state sforzando e affaticata, se vi manda dei segnali che magari noi, non essendo degli addetti ai lavori, non riusciamo, certo, a cogliere. Generalmente quando abbiamo bisogno di schiarirci la voce sentiamo che la voce cala, ma ci sono altri campanelli che dobbiamo, d'allarme, che dobbiamo saper individuare. Rita dalla provincia di Catania ci sta chiamando, e poi c'è Simona da Ravenna. Giochiamo in casa, professor Fussi. Rita, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Un'attrice, vedo. Sì. Allora, Rita. Sì. O meglio, amatoriale, quindi comunque faccio teatro, ma non per mestiere, però uso molto la voce anche per lavoro, perché lavoro in un call center. Quindi ho sempre, insomma, particolare difficoltà, ma sin da piccolo ho avuto nell'utilizzare molto la voce. La sentiamo anche un po' male noi, telefonicamente. Quindi, Rita, allora... Sì, sì. Attrice amatoriale, lavoro in un call center. E quindi sfrutto molto la voce. Devo dire che sin da sempre, anche da più piccola, ho avuto sempre problemi di abbassamenti di voce. Allora, professor Fussi, sì, abbassamenti di voce per la nostra attrice. A quello che noi chiamiamo il surmenage vocale, cioè il fatto che durante il quotidiano ci siano più impegni vocali di tipo diverso, anche di natura diversa, in questo caso appunto l'attività lavorativa, quindi il call center, e poi la recitazione o il canto amatoriale. E il sommarsi, no, di prestazioni vocali protratte e magari anche non sostenute da una buona tecnica vocale, nel caso della recitazione, quando devo proiettare la voce, quando devo parlare forte, sottopone le corde vocali a stress meccanico e quindi alla possibilità di stati edematosi o di spessimenti del bordo. Quindi questo richiederebbe ovviamente un approccio di tipo riabilitativo, logopedico, per poter migliorare l'economia di gestione del proprio strumento e quindi non incorrere in danni del bordo libero, che inizialmente possono essere solo transitori, poi la voce si recupera, però poi nel lungo termine si possono creare delle lesioni non reversibili. Torniamo al nostro Ligabue. Liga ha parlato di un intervento, ma è sempre necessario, professor Fussi? È necessario per alcune patologie che sappiamo in partenza che non retrocedono, come nel caso del polipo intracordale, mentre invece non sono necessarie quando il trauma meccanico ha creato soltanto uno stato edematoso o un ispessimento nodulare. Allora in questo caso è probabilmente sufficiente anche solo la terapia medica riabilitativa. Ci sono delle lesioni come le cisti o come i polipi intracordali che invece hanno bisogno di un approccio di tipo chirurgico e poi di una riabilitazione post chirurgica, e nell'arco di 3-4 mesi ci si rimette a posto. Mandiamo in palestra la nostra voce, le nostre corde vocali, e dovremo anche lavorare sulla respirazione, ma il professor Fussi ci darà delle indicazioni. Intanto andiamo a Ravenna, professore, c'è Simona che ci aspetta. Buongiorno Simona. Buongiorno professor Confussi. Buongiorno. Ecco, vero che è così. È così. Questo si chiama raclage. Che non si dovrebbe fare. Io appunto devo prendere un breve appuntamento con lei, ho già il suo numero, però ne approfitto. Io sono una cantante non professionista. Sì, sono una cantante non professionista in un coro di Faenza e ho smesso da un po', ho una fonia che dura oramai da tempo, con una laringite, ho un bambino di 18 mesi che mi porta a casa ogni genere di immagino di batterio e non riesco a liberarmi di questa cosa, oramai sono mesi che prendo antibiotici, li ho provati. E quindi anche l'attività al coro ne risente. Simona, le lasciamo riposare la sua voce per dare modo al professor Fussi di inquadrare in modo generale la situazione. Simona sicuramente lavora sulla voce perché è una cantante, anche se è in un coro amatoriale, ha un bambino che è un po' come degli untori, quando sono piccoli ci portano a casa di tutto, Carmelo infatti che ha due bambine piccole qua che l'ho visto che si stava soffiando il naso e naturalmente laringiti, mal di gola non aiutano. Professor Fussi, che cosa si fa per interrompere questo circolo vizioso, diabolico? Intanto, direi, diciamo che appunto gli stati infiammatori ripetuti su cui poi vado a esercitare la voce in maniera continuativa o più o meno professionale vanno a creare più facilmente una reattività della mucosa e quindi l'edematizzazione, l'infiammazione della mucosa, le corde quindi non chiudono più bene, quindi ho la fonia, spingo ancora di più e quindi esercito un circolo vizioso che va a creare sempre di più problemi e problematiche vocali. Per interrompere il circolo vizioso si tratta intanto prima di tutto di fare ovviamente una buona diagnosi e poi una riabilitazione, ma nel contempo anche a rinforzare le difese immunitarie per essere meno soggetti a questi stati flogistici. Professor Fussi, prima di andare al GR, poi ancora spazio alle telefonate naturalmente dei nostri ascoltatori, qual è l'errore che commettiamo più di frequente, quello più diffuso, su cui caschiamo tutti? Ma a volte mancanza di sufficiente idratazione per le nostre mucose, perché in fondo uno degli elementi diciamo di miglior salute delle nostre corde vocali è il mantenerle idratate, quindi bere sufficientemente, fare anche pratiche, ci sono varie strategie per idratare le corde vocali, dal bendaggio col fazzoletto bagnato sotto al naso alla assunzione di acido ialuronico, di pectina, ci sono varie modalità, i fomenti con la camomilla, ci sono varie modalità per mantenersi idratati, oltre ovviamente a bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. È uno degli elementi principali di protezione diciamo delle nostre corde vocali, perché comunque anche se sono infiammato e devo esercitare la voce, nel caso in cui la mucosa sia secca, il potenziale di urto traumatico dei bordi delle corde vocali aumenta se loro non sono ben idratate. Allora, torneremo su questi vedi, su questi modi per idratare le nostre corde vocali, ma avanti voi con la vostra voce per farla ascoltare al professor Fussi. Se siete cantanti, se siete attori, se usate la vostra voce, siete magari degli insegnanti, ma anche fumatori, o se vi è stato diagnosticato il reflusso, perché anche il professor Fussi ha così accennato anche a questa categoria di persone. Tra l'altro il reflusso, sappiamo, è molto diffuso. Noi vi aspettiamo qui, voi e la vostra voce. A tra poco, dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 26 marzo al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione. Il lato comico dell'attualità. Cuore e denari. Eccoci qua, noi siamo tornate e torniamo ad occuparci della nostra voce per scoprire un po' come utilizzarla al meglio, come preservarla. Vedi? Professor Fussi, quando parlo con lei mi va subito giù. Ma guarda che subito abbiamo il raspino qua. Allora, siamo emozionate. Allora, vogliamo parlare della salute della voce, perché anche la nostra voce, lo sappiamo per esperienza diretta, ha un benessere e un malessere. In linea con noi uno dei più grandi esperti, il professor Fussi, responsabile del centro foniatrico azienda USL della Romagna a Ravenna. Può capitare che la nostra voce, professore, si abbassi all'improvviso, diventi roca, sia intermittente, che manchi e poi si ripigli. Sono tutti modi in cui la nostra voce ci segnala, ci manda, ci lancia degli SOS, ci aiuta a individuare quelli che non dobbiamo trascurare? Sicuramente la raucedine ricorrente, quindi quando ho una faticabilità, una maggiore senso di fatica fonatoria e sento la voce che si stanca durante il giorno e che perde di qualità, cioè diventa un po' ipofonica, un po' dura, un po' stembrata, un po' vuota, diciamo, e sento la fatica nel doverla gestire. Questo di solito è perché le mucose si disidratano e i fattori disidratanti possono essere svariati, dalla stato allergico al reflusso gastroesofageo, all'aver assunto poca acqua durante la giornata, a stati infiammatori, quindi varie cause sottosoggiacenti ci possono essere. Poi sicuramente la necessità spesso di schiarire la voce, quindi di fare questo tipo di manovra, che va a creare un microtraumatismo sul bordo delle corde vocali, quindi cercherei di evitare di farlo e cercare, quando devo parlare forte, di utilizzare maggiormente le mie cavità di risonanza, quindi proiettare meglio i suoni nei risuonatori superiori in maniera tale da non coinvolgere troppo il bordo libero delle corde vocali, quindi non sottoporlo troppo a stress meccanico. Quindi lanciamo la voce. Lanciamo la voce, sì, proiettiamo la nostra voce. Il respiro è la benzina della nostra voce. Spesso noi. La voce sottintende ovviamente avere un buon rapporto, si chiama pneumofonico, cioè di gestione della respirazione diaframmatica e di sostegno alla voce. Ecco, ma non può insegnarcelo, professor Fussi? Ci dà qualche dritta? Ci sono degli esercizi per poter gestire e proprio recepire meglio, cioè rendersi, avere più consapevolezza della gestione del proprio fiato. Sono esercizi che vengono svolti poi a livello logopedico, quindi è un po' difficile adesso in pochi minuti suggerirli. Allora, abbiamo chiamato all'appello per tutte le persone che usano la voce per lavoro, magari pensiamo agli insegnanti, agli avvocati, anche ai nostri amici tassisti che devono magari intrattenere adesso stanno il loro urlando ospite a Roma, tra l'altro. Che in questo momento sì, i giornalisti sforzano, radiofonici, non ci vogliamo occupare di loro. I fumatori, i cantanti, gli attori, i musicisti, professor Fussi, una domanda arriva da un nostro ascoltatore, ma per chi suona degli strumenti a fiato, le corde vocali in qualche modo possono subire uno stress e quindi in qualche modo venire a confrontarsi con dei problemi simili a quelli di chi la voce la stressa parlando? Sì, perché comunque in maniera indiretta noi nell'utilizzare uno strumento a fiato utilizziamo comunque la muscolatura laringea anche intrinseca, quindi comunque c'è uno stress muscolare. Non c'è ovviamente lo sfregamento dei bordi delle corde vocali perché non c'è emissione di suono, tranne in quelle tecniche per esempio col flauto in cui si utilizza anche, suonando si utilizza anche la voce, ci sono alcune tecniche in cui viene utilizzato anche il suono. Abbiamo chiesto ai nostri amici anche di chiamarci se hanno ricevuto una diagnosi di reflusso, un tema di cui ci siamo occupati tante volte, che ha sintomi esofagei e anche extraesofagei. Andrea da Ferrara ha raccolto subito il nostro invito ed eccolo qua, buongiorno. Buongiorno, io sono Andrea e ho spesso come dei gorgogli quando dopo dei momenti di silenzio quando riparto con la voce ho come il gorgoglio da catarro. Poi spesso ho questo, devo schiarirmi la voce e circa un mese fa tossivo tantissimo senza avere tosse. Più tossivo più avevo bisogno di tossire. È così. Allora, quindi, professor Fussi. Ci sta raccontando tutti quelli che sono i sintomi aspecifici del reflusso faringo-laringeo, che quindi non hanno come sintomatologia una sintomatologia digestiva, la gastralgia, l'eruttazione, ma soprattutto sintomi vocali, che sono appunto il bisogno di schiarire la gola. Quando deglutiamo, la sensazione di avere come un tappo di muco, quindi che rende un po' difficoltosa la deglutizione, devo un po' caricare una un po' di spinta, diciamo. Sì, è come se avvertissimo quasi un groppo, ecco. E poi la secchezza e la tosse secca in particolare notturna, perché poi i vapori di acido cloridrico possono entrare in trachea e irritare e quindi creare poi il sintomo della tosse. Che fare in questi casi? Naturalmente il problema è a monte, ma per così alleviare questi sintomi, questi che sono molto fastidiosi, professor Fussi? Rivolgersi a un otorinolaringoiatra, a un foniatra o anche a un gastroenterologo per avere una diagnosi, una diagnosi endoscopica, che non è necessariamente per forza in prima battuta la gastroscopia, e quindi poi utilizzare degli antiacidi, degli antireflusso, gli inibitori di pompa protonica che appunto inibiscono la formazione di acido cloridrico e poi anche degli alginati che vanno a tamponare l'eventuale reflusso acido che può arrivare appunto in laringe e scatenare queste sintomatologie. Direi che l'offerta è piuttosto ampia. Allora, sorrido per un messaggio che è arrivato ora. Ho sempre avuto fin da bambino un vocione che è un po' imbarazzante, un piccolino di 4 anni che ha il vocione. Che parla Corro rischi? Non fumatore, sportivo. Cosa posso fare per una bella voce sexy? Professor Fussi. Ma poi magari è sexy e lui non lo sa. Infatti. Anche perché un gran vocione, dipende che cosa intendiamo per gran vocione, cioè nel senso abbiamo una frequenza fondamentale molto aggravata e quindi parliamo molto così, molto basso, molto rauco, molto basso. Senti come le sa tutte. Le sa tutte, le fa tutte, perché per insegnare alle persone a così governare un po' la voce devi essere veramente un atleta. Professor Fussi. È un po' difficile, quindi dicevo, fare una valutazione dicendo soltanto che è un gran vocione. Bisognerebbe appunto capire se ha una corda vocale. Anche questo dimostra, professor Fussi, che spesso la nostra voce non ci piace perché sentiamo che non ci rappresenta. Quando ci ascoltiamo quasi non ci riconosciamo e diciamo, oh mamma mia, che voce sgradevole. Professor Fussi, lei e i nostri ascoltatori lo stanno richiedendo, ha parlato di modi per tenere umidificate le corde vocali, idratarle, quindi non solamente attraverso l'assunzione di dei famosi 1,5 litri acqua al giorno, 2 litri d'acqua al giorno, ma anche, professore, anche ad esempio aerosol orali con soluzione di acido ialuronico che ha un ottimo potere idratante, l'assunzione di pectina e quindi magari gel di aloe e di pectina, la pectina poi viene contenuta anche nelle mele, quindi comunque